Un'ultima domanda, professor Micossi, perché ce la chiedono molti ascoltatori oggi, da immaginabile, al 349-238-6666. Il Belgio ha avuto un abbassamento della prospettiva sul debito da parte di Standard & Poor's perché è 6 mesi che è senza governo. Secondo lei l'incertezza politica sancita oggi dal voto alla Camera, 3 deputati di scarto, può portare problemi alla, diciamo così, affidabilità del debito italiano? Guardi, la buona notizia di oggi è che siamo ancora con un governo dal punto di vista economico e finanziario. Io ero preoccupato dell'idea che un Presidente del Consiglio sfiduciato andasse a Bruxelles a questo importantissimo Consiglio europeo. Da questo punto di vista, io sul merito politico non entro, oggi siamo meno in pericolo di ieri. Un governo debole ce l'abbiamo da un po' di tempo, però abbiamo un Ministro dell'Economia forte che fino adesso ha tenuto. Le analisi dicono che in Italia non c'è un problema perché il disavanzo è sotto controllo. E rimaniamo così, per adesso qui è dove siamo.